Kai pamatau, kad vėliai ateini, o tavo akis, užšaltos akis sako, kad praeity, kad meilį praeity. Širdis taip plaka, kvaila širdis taip plaka, kai išeini lengvai ranką pamojas, ar besugrįši tik pėdsakus ant tako, užpustovėjas piktai nusikvatojas. Nemyli tu manęs, nemyli ne, aš eisiu į gatvę, ieško tave. Neverksiu be tave, ne, ne, ne, ne. Un cuore matto che ti seguo ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a farli mai capire che tu vuoi bene ad un altro e non a me. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Dilli la verità, la verità, e forse capirà. Perché la verità tu non l'hai detta mai. No, no, no, no. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sei di guarire, lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto, matto della gara, un cuore matto, matto della gara.